è un dato che abbiamo rilevato ormai con uno storico di 5 anni scolastici, con accesso generalizzato ai dati presso il Ministero dell'Istruzione e quest'anno anche presso le province autonome di Trento e Bolzano, che fanno, diciamo, un po' di storia a parte. La conferma è che in tutta Italia, in tutti gli ordini di scuola, crescono i no all'ora di religione cattolica. Bologna in realtà non è al primo posto, ma è al secondo posto in Italia dopo Firenze, c'è uno scarto di un punto percentuale, e siamo già in tutta la provincia al 36,31% di no all'ora di religione cattolica. Ma se ci limitiamo al comune di Bologna, perché c'è questa differenza anche città-provincia, la percentuale sale al 45,66%. Ci sono scuole in particolare dove addirittura è sopra il 50%. Esatto. Sia dall'infanzia fino al liceo, alla scuola superiore, si superano il 50%, in alcuni casi con dati anche notevoli. Ad esempio, se ci limitiamo ai licei, vediamo che all'artistico, l'Arcangeli, siamo al 62,29%, al Copernico siamo al 61%, al Laura Bassi 56%, e infine a Righi, quest'anno, qui anche Righi quest'anno supera il 50% con il 52,71%. Poi si può proseguire per gli altri ordini di scuola, però diciamo i licei mostrano un dato, a nostro avviso, che smentisce un po' la replica: ah, crescono questi numeri perché siamo invasi dagli stranieri. No, non mi risulta che, diciamo, ai licei ci sia questa alta percentuale di studenti di origine straniera. E poi il tema è la laicità della scuola, cioè ci sono meno studenti che vengono indottrinati dal punto di vista religioso. Questo è un bene per la scuola pubblica. E poi gli studenti, soprattutto quelli, diciamo, dai 3 ai 6 agli 8 ai 10 anni, sono bambini, quindi non hanno un'appartenenza religiosa, devono essere trattati nello stesso modo, sia educati allo spirito critico e non tramite insegnanti scelti dal vescovo e pagati dallo Stato. Tutto questo in un contesto in cui abbiamo letto in questi giorni di un concorso farsa per gli insegnanti di religione, che in realtà poi vengono assunti automaticamente. Sì, confermo, è esattamente un concorso farsa, ma non solo perché appunto tutti quelli che si iscrivono saranno confermati, ma per un'altra piccolezza, chiamiamola tra virgolette, ossia che è ammesso al concorso solo chi si presenta con una lettera firmata dal vescovo che dice che è idoneo a essere assunto a spese dello Stato. E questa lettera si chiama idoneità diocesana, deve essere anche stata stampata e firmata negli ultimi 90 giorni. In pratica è la forma di clientelismo più grande in Italia, perché in tutta Italia sono appunto 26.000 insegnanti di religione cattolica, e però sono raccomandati dal vescovo inteso in senso letterale, cioè devono presentarsi al concorso con una letterina. Se hanno quella letterina allora lo passano, altrimenti no. Alla faccia di tutti gli altri precari che devono invece sudarsi il posto fisso statale, perché invece non devono avere amicizie in curia. Immagino che voi, di fronte a questi numeri in crescita, immaginiate che debba essere rivista anche l'insegnamento della religione cattolica. Certo, il nostro obiettivo finale è quello di abolire, così com'è, l'insegnamento della religione cattolica. Come ho spiegato, è da concordato una materia impartita in conformità con la dottrina della Chiesa da insegnanti scelti dal vescovo e pagati dallo Stato, e quelle ore vengano recuperate e vengano distribuite nelle materie fondamentali, obbligatorie, e magari le religioni, i fenomeni religiosi, nei quali c'è anche l'ateismo e l'agnosticismo, attenzione, soprattutto le nuove generazioni hanno questa scelta di vita, una scelta di vita basata su valori esclusivamente umani. Quindi che queste, diciamo, questi fenomeni religiosi e irreligiosi siano studiati in maniera critica nelle ordinarie materie, storia, geografia, filosofia, arte, letteratura. Perché? Perché la scuola è deputata allo studio critico, a insegnare ai giovani a pensare liberamente e a scegliere proprio l'orientamento religioso o areligioso in maniera consapevole, gradualmente, da grandi.